Vangelo di Matteo, capitolo 25. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali presero le loro lampade, uscirono a incontrar lo sposo. Or 5 d'esse erano stolte, e 5 avvedute. Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso seco dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevan preso dell'olio nei vasi. Or tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido, «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono, acconciarono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute, «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero, «No, che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo, «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispondendo disse, «Io vi dico, in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Poiché avverrà come di un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni. E ad uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Ma subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Parimenti, quello che dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò e, fatta una buca in terra, vi nascose il denaro del suo padrone. Or dopo molto tempo ecco il padrone di quei servitori a fare conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo, «Signore, tu m'affidasti 5 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 5». E il suo padrone gli disse, «Va bene, buon e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gloria del tuo Signore». Poi, presentatosi anche quello dei 2 talenti, disse, «Signore, tu m'affidasti 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2». E il suo padrone gli disse, «Va bene, buono e fedel servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gloria del tuo Signore». Poi, accostatosi anche quello che aveva ricevuto un talento solo, disse, «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ebbi paura e andai a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo». E il suo padrone rispondendogli disse, «Servo malvagio ed infingardo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro ai banchieri, e al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e gli sovrabbanderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servitore, disutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Or quando il figliuolo dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seco tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria, e tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra, e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, eredate il regno che v'è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e m'accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai t'abbiam veduto aver fame e t'abbiam dato da mangiare? O aver sete e t'abbiam dato da bere? Quando mai t'abbiam veduto forestiere e t'abbiamo accolto? O ignudo e t'abbiamo vestito? Quando mai t'abbiamo veduto infermo o in prigione siamo venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a coloro della sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiere e non m'accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando t'abbiamo veduto aver fame o sete o essere forestiere o ignudo e infermo o in prigione e non t'abbiamo assistito? Allora risponderà loro dicendo: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna.